fa l'amore vorrezza lottere se pare, chi se sceglie l'ombra profumata d'un caffè, mentre goda ditte a me mi piace amoreggiare per le strade in libertà. Quando poi tramontare sole, so più dolci le parole a tu per tu. Come bello fa l'amore quando è sera, cuore a cuore con una pupa che è sincera, quelle stelle che ci guardano lassù, non so belle come gli occhi che c'hai tu, luce bianca dormi veglia d'un lampione che ti insegna dove tutte puoi baciare, specialmente fra le rose a primavera. Come bello fa l'amore quando sera. Sperza nell'erbetta fra le rose e le panze, io c'ho una casetta che me fabbrico da me. C'ha benedetto il cielo, c'ha la luna papà giù, nel tramonto è tutta blu. Non c'è pago mai bigione e c'è porto ogni maschietta che me va. E se un vigile me chiede lei che fa, io rispondo è casa mia che non lo sa, l'ho inarazzata con gli sogni sta casetta, e se qui la pupa mia me via trova, specialmente fra le rose a primavera. Come bello fa l'amore quando è sera a primavera.